24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7.32 minuti, eccoci cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 per chiudere questa settimana, venerdì 28 maggio. E allora, il nostro sondaggio di oggi, torniamo un po' a occuparci della casta per eccellenza, quella dei politici, almeno così dicono, perché sono sempre più ormai parlamentari che alla luce di questa manovra di tagli dicono: ora basta, ora ci stiamo stancando di essere delegittimati perché siamo politici, siamo deputati, siamo senatori, ma non siamo dei ladri. E molti di questi, stanchi di questa demagogia, di questo populismo, dicono: vi facciamo in maniera trasparente sapere tutto quello che guadagniamo, altro che 20.000 euro, 30.000 euro al mese, come si legge in alcuni siti internet. Vi facciamo sapere tutto. E allora, siamo politici, non ladri. La protesta dei molti deputati e senatori, secondo voi è una protesta legittima? Dovete votare su radio24.it. Bianco o nero, ne parleremo poi alle 8.30. Ed ora i giornali. In primo piano. Ieri l'assemblea di Confindustria certamente cattura un po' le prime pagine dei giornali, poi c'è ancora la manovra, c'è la frase di Berlusconi che abbiamo sentito, che ha citato Mussolini. Insieme per la crescita, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, Berlusconi alla platea, Emma ministro, ma è gelo in sala. Il premier cita Mussolini, non ho potere, questo per il Corriere, e anche Repubblica, Berlusconi, non ho poteri. Manovra ok, ma non basta, così Marcegaglia sulla Stampa, questa è l'apertura. Berlusconi, non conto niente, il giornale. Berlus flop, il Fatto Quotidiano, figuraccia la Confindustria su Marcegaglia. Tremonti gli impone una manovra lacrime e sangue, dalle inchieste emergono nuovi elementi di forza mafia e il caso del nastro di Fassino è un vero Watergate italiano. Questo è il Fatto Quotidiano. Per l'Unità invece lo schiaffo di Emma, cioè Emma Marcegaglia, la vicenda è quella di ieri avvenuta all'Assemblea di Confindustria. Allora, imprese e lavoro, le assise per la crescita, Marcegaglia, bene il rigore della manovra ma più misure strutturali. Ovviamente quello che abbiamo sentito anche il GR che è avvenuto all'Assemblea di Confindustria. Io mi voglio concentrare proprio qui sui retroscena, i commenti che ci sono sui giornali, a partire da quello che Nicoletta Picchio scrive a pagina 3, vale a dire l'applauso più prolungato, più intenso da parte dell'Assemblea di Confindustria al presidente Emma Marcegaglia è avvenuto quando Marcegaglia ha parlato dell'inefficienza della politica soprattutto, no? Troppi interessi partitici, rendite da salvaguardare, una politica che dà occupazione a troppa gente, l'unico settore che non conosce né crisi né cassa integrazione. Allora, secondo molti retroscena sui giornali, è un po' lì che Berlusconi si sarebbe irritato e da lì è nato poi quel tentativo di coup de théâtre che ha fatto invitando pubblicamente la Marcegaglia a diventare ministro, insomma il sostituto di Scajola, lo sviluppo economico, chiedendo all'assemblea: alzate la mano chi lo vuole. Nessuno ha alzato la mano se non tre o quattro sparuti imprenditori, al che Berlusconi ha detto: e allora non lamentatevi se più di questo governo. Insomma, il Berlusconi irritato sceglie la provocazione. Pagina 3 della Stampa, Amedeo la mattina: troppo semplice, riduttivo liquidare come l'ennesima gaffe, una gag da cabaret, l'invito ad alzare la mano per chi vuole Emma Marcegaglia al posto di Claudio Scajola. Secondo questa ricostruzione è proprio un Berlusconi irritato soprattutto per quei grandi applausi sull'antipolitica, no? Su questa politica che dà troppa occupazione. Allora Berlusconi avrebbe definito questi imprenditori burocrati che non hanno ben chiaro cosa ci attende, non sono mai contenti di quello che è stato fatto per loro. Addirittura qualcuno dice una sorta di discorso in quell'accenno alla Beppe Grillo che non è piaciuto, e quindi qualcuno dice ha voluto provocare gli imprenditori che ora, dice Mario Valducci, un uomo molto vicino al premier Berlusconi, ora non potranno lamentarsi per le cose che farà il governo. Infatti anche su Libero il Cavaliere irritato: non ci diano lezioni gli imprenditori. Però in realtà il grande gelo è quello esaminato da tutti i giornali. Volete Emma nel governo? Gelo tra il Cavaliere e la platea sul Corriere della Sera, così anche sul Sole 24 Ore, pagina 2. Emma ministro, il gelo in sala. Berlusconi insiste, ma dalla platea è stop. Tra l'altro, sul Corriere della Sera c'è anche questo piccolo retroscena di Fedele Confalonieri, uomo, sapete, vicinissimo a Berlusconi, che alla fine dei discorsi si è avvicinato a Emma Marcegaglia e gli ha detto questo, scrive Raffaella Polato: brava Emma, stacca tua, vamingala, che per chi non sa il milanese vuol dire stai a casa tua, non andare mica là, stattene a casa tua, non andare là, insomma, imprimatur doc sulla scelta diciamo giusta di non accettare questo invito fatto in maniera anche plateale da Silvio Berlusconi. Per Alberto Statera su Repubblica, pagina 3, il gelo degli imprenditori sul Cavaliere dimezzato, addirittura parla una platea di colleghi imprenditori Berlusconi e dice Statera quello che da Vicenza si tratta di una sorta di fine di un'epoca, qui si consuma forse nel deserto di tre braccia timidamente sollevate in una sala popolata di 3.000 anime la fine di un'epoca, quella che da Vicenza in poi vide consessi frementi applaudire al tempo stesso critiche motivate a apodittiche affermazioni di inesistenti successi lanciati dal Premier. Insomma, Statera dice interessanti quelle tre isolate mani sollevate nell'immenso auditorium. Insomma, i giornali si concentrano su questo momento, cioè la frase, soprattutto sulla politica molto critica da parte di Emma Marcegaglia e poi questo invito plateale caduto nel vuoto e quello che può significare. Sta di fatto che Berlusconi, che qualche giornale dice è arrivato poi a Parigi, cupo, col viso cupo, per presenziare all'Ocse, è arrivato e che ha fatto? Si è guadagnato le prime pagine dei giornali perché ha citato Mussolini. Ha citato Mussolini, il potere lo hanno i miei gerarchi. Pagina 7 del Sole 24 Ore, Berlusconi all'Ocse cita Mussolini. Citare Mussolini a Parigi, nella sede di un'organizzazione multilaterale a fianco del premier israeliano. Tra lo stupore della platea che assisteva alla conferenza stampa dell'Ocse, Silvio Berlusconi ha usato un passaggio dei diari del dittatore italiano per spiegare che come primo ministro non ha mai avuto la sensazione di essere al potere. La frase sostanzialmente è questa: dicono che ho potere ma non è vero, forse ce l'hanno i gerarchi ma non lo so, so solo che posso ordinare al mio cavallo di andare a destra o di andare a sinistra e di questo devo essere contento. Ecco le parole citate dai diari: non ho mai avuto la sensazione di essere al potere, di avere potere. Silvio cita il Duce, io come Mussolini, questo a pagina 8 di Libero. Non ho poteri, decidono i gerarchi. Tra l'altro il giornale cosa fa? Va a telefonare con Vittorio Macioce a Dell'Utri, colui che dice quella frase l'ha letta nei diari di Mussolini che gli ho dato io qualche giorno fa. Ha proprio citato i diari, li sta leggendo. È stato lei a darglieli e non mi risulta che altri li abbiano, quei diari che tra l'altro qualcuno dice sono finti, sono veri, insiste Dell'Utri, ma qua c'è stata una polemica storica. Chi sono i gerarchi secondo lei a cui si riferisce oggi Berlusconi? Bah, non lo so, forse non so se aveva in mente qualcuno in particolare, mi sembra una battuta casuale, poco casuale. Viene in mente Giulio Tremonti, chiede l'intervistatore, cioè Vittorio Macioce. E Dell'Utri, che è in aeroporto e sta per partire, dice: c'è stato un annuncio, non ho capito, non la sento. Tremonti, le stavo dicendo, Tremonti, risponde Dell'Utri, forse, non lo so, io posso dire chi erano i gerarchi di Mussolini, ma non ha neppure un sospetto su chi sarebbero i gerarchi oggi? Ma tutti quei poteri che non lo lasciano governare, dentro, fuori al governo, sono ovunque. Avere una maggioranza, dice Dell'Utri, non significa poter governare. E poi alla fine, ma scusi, ma Berlusconi e Mussolini ci sono affinità, ma quando mai, sono diversissimi, conclude la telefonata Dell'Utri. Intanto la manovra Allora, tenetevi forte, perché quanto è durato la possibilità, quanto è durata la possibilità che 10 o 9 province potessero essere cancellate? Quanto è durata secondo voi? 24 ore? 20 ore? Qualche ora? Qualche minuto? Ieri ve l'avevo detto, insomma, questa cena nella quale Tremonti e Berlusconi avevano detto guardate che non c'è nessun taglio, avete preso un grande abbaglio, salta l'abolizione delle province. Pagina 11 del Sole. Tenetevi forte al volante se siete in macchina, tranquilli, non vi innervosite, non fate questi gesti stizziti. Salta l'abolizione delle province. Oh, fate un bel respiro. Berlusconi, non c'è nessuna traccia dell'abolizione delle province nel decreto. Tra l'altro, di province, di abolizione o di non abolizione o di quando mai ci sarà una auspicata abolizione, oggi Oscar Giannino ne parlerà alle 9. Salta l'abolizione delle province, nessuna traccia nel decreto. Cosa dice invece il giornale a pagina 2? L'onorevole trucco che salva lo stipendio di deputati e senatori. Oh, attenzione, perché questo è il tema del nostro sondaggio. La protesta di deputati e senatori che dicono basta trattarci come ladri. Siamo gente che lavora, guadagna anche tanto, è vero, se ci sono tagli da fare li facciamo, ma basta dire il politico è il ladro, questa delegittimazione. Vi chiediamo se è una protesta secondo voi legittima. Secondo me lo è, lo dico subito, anche se per ora stanno prevalendo i no all'89%, ma è ovvio. L'onorevole trucco che salva lo stipendio di deputati e senatori, secondo il giornale, qual è? Che il 10% di tagli che forse ci sarà non andrà a incidere sulla parte la busta paga secca, i 5.486 euro al mese netti, ma andrà a incidere sulla cosiddetta diaria, vale a dire quelli 4.000 euro al mese netti che vengono dati per le spese di soggiorno a Roma, dei portaborse, eccetera. Verrebbe lì decurtata fino a 2.000 euro, ma se un parlamentare non sarà assenteista e si comporterà bene, sarà presenzialista e lavorerà, potrebbe ritornare a 4.000 euro, cioè una sorta di diaria ribattezzata a punti. Cioè, secondo il giornale, si starebbe studiando dei tagli in cui la parte fissa su cui si calcola la pensione dei deputati rimane intoccabile. I tagli riguarderanno i rimborsi, ma alla fine sarà una sforbiciata da 1.000 euro al mese. Ciò che certo succede, e da qui voglio ripartire, è che ci sono novità sulle, visto che siete al volante, tenetelo sempre stretto, l'ipotesi di nuovi pedaggi su tantissime autostrade e la tassa di soggiorno. In primo piano. Via al pedaggio sulle strade della rete ANAS. La manovra prevede che dovrebbero arrivare vari pedaggi, tra cui quello sulla Salerno-Reggio Calabria, il tormentone di decenni d'Italia. L'ultimo ci provò Antonio Di Pietro, quando era ministro, a dire sto pensando a 50 centesimi o 10 centesimi per finire la Salerno-Reggio Calabria, fu subissato di critiche. Ora pare che ci sarà... Sarà difficile, abbiamo sentito, non ci sono caselli, come si fa? Boh, però pare che sulla Salerno-Reggio Calabria possa arrivare il pedaggio, come sulla tangenziale di Catania, la tangenziale nord di Bologna, il raccordo Chieti-Pescara, quello che unisce Torino all'aeroporto di Caselle, mentre Gianni Alemanno a Roma è contrario al pedaggio sul grande raccordo anulare, mentre potrebbe essere favorevole al balzello sulla Roma-Fiumicino. Insomma, attenzione cari italiani, sulla stampa, pagina 6, c'è tutta l'Italia con tutte le autostrade, tratte autostradali dove potrebbero arrivare i pedaggi. Ciò che arriva e che sta facendo polemiche, o meglio arriva, è previsto una manovra, è la tassa di soggiorno. Ieri ne ho parlato, oggi il Corriere ci ritorna a pagina 8. C'è intanto una lite Polverini-Alemanno, cioè Alemanno la vuole, la Polverini no. Tassa di soggiorno fino a 10 euro a Roma per gli alberghi extra lusso. Ieri era questo l'esempio di Alemanno, che ne so, uno paga 300 euro a notte in un albergo, 310, 300 più 10 di tassa di soggiorno. Alemanno la difende, chi protesta fa demagogia ridicola, la Polverini no, Venezia ora la vuole, anche Venezia la chiede. C'è chi la vuole, c'è chi no. A Parigi c'è, a New York c'è, e insomma ci si divide su tassa di soggiorno sì o no. Chi è molto critico della manovra, per concludere sulla manovra, è Formigoni. Il presidente Formigoni fa un'intervista a Repubblica, presidente della regione Lombardia. Servizi decurtati, addio al federalismo. Ribadisco, questa manovra non è equilibrata. Chiede alle regioni tagli per il 45% dei 24 miliardi. 10 miliardi su un totale di 24 vengono tolti alle regioni. Mentre i tagli di spese dei ministeri sono fissati al 10%. Ecco la rivendicazione. Poi dice Formigoni, attenzione, perché siamo in concreto costretti a tagliare servizi. E il federalismo così è a rischio. Vabbè, insomma, questo per quel che riguarda la manovra. C'è moltissimo di inchieste giudiziarie che trovate sui giornali. Allora, le inchieste giudiziarie sono dal Sole, a pagina 45, l'inserto Finanza e Mercati, al Corriere, a Repubblica, la Stampa, tutti puntano sul fatto che la Procura di Roma starebbe indagando su per presunti fondi neri Finmeccanica. Finmeccanica sotto inchiesta, fondi neri, verifica sull'attività del presidente Guarguaglini e della moglie, capo della società partecipata. Tutto nasce da un'intercettazione di quel faccendiere Gennaro Mockbell, che forse lo ricordate, era finito anche nella vicenda Fastweb. Sempre inchieste, c'è finisce sotto inchiesta l'ex sindaco di Bologna Del Bono, quello Bologna a luci rosse, per Libero, sexy sindaco a processo per i viaggi con l'amante, che poi non era l'amante, era la compagna, però ci si ostina a definirla l'amante, era la sua compagna segretaria. C'è Tanzi. Tanzi, come sappiamo, Calisto Tanzi, è stato condannato in appello a 10 anni di carcere, ma soprattutto a risarcire 100 milioni di euro ai risparmiatori. Tanzi, nulla tenente a bordo piscina. Paolo Colonnello va fuori della villa di Calisto Tanzi. Come sto? Bene, compatibilmente con quello che mi è successo. Capelli bianchi, un maglioncino leggero bordeaux, le mani aggrappate al volante, leggermente ingobbito. Il giorno dopo la condanna a 10 anni di reclusione al risarcimento di 100 milioni di euro, Tanzi sembra l'ombra di se stesso. Pochissime parole, gli bussa Paolo Colonnello all'arrivo della macchina fuori dalla villa. Abbassa il finestrino, non ho niente da dire, magari la prossima volta la moglie lo invita a ripartire, devono fare la spesa a Parma come due pensionati. L'auto va via. E però Paolo Colonnello dice: nulla tenente, dicono gli avvocati, ma c'è il mistero di quel viaggio fatto a Quito, la capitale dell'Ecuador, poco prima di essere arrestato. Secondo molti, se c'è un tesoro, andrebbe cercato lì. In ogni caso, non ho più nulla, dice ancora Calisto Tanzi, e saluta con la mano dietro il finestrino. Tanzi, nulla tenente, a bordo piscina, viaggio nel regno dorato dell'ex patron della Parmalat. Io chiudo con questa notizia. Io tutte le volte che leggo rimango sconvolto e mi chiedo in che razza di paese viviamo. La leggo dal Messaggero, pagina 17. Nel 2006 fece una strage guidando contromano, ubriaco, per 13 chilometri. Ha ucciso 3 persone. Stefano Masci, in appello, condannato in primo grado a 8 anni, è stato condannato in appello a 5 anni e 4 mesi. L'imputato ha diritto a 3 anni di sconto per l'indulto, usufruirà dunque di questo. La condanna dunque è di 2 anni e 4 mesi, alla quale va sottratto 1 anno di detenzione già scontato da carcere e arresti domiciliari, pena sospesa. 3 persone uccise perché guidava ubriaco, contromano, 13 chilometri, 2 anni e 4 mesi di condanna, pena sospesa, dunque nulla. Questa è la giustizia italiana, la rabbia del papà di una vittima, Pietro Montanari, padre di Maurizio, una delle 3 vittime della tragedia avvenuta il 17 aprile del 2006. Ho tanta amarezza dentro, è una sentenza troppo mite. Ora sembra che i colpevoli della tragedia siano mio figlio e gli altri 2 ragazzi che non dovevano trovarsi nel posto sbagliato. Se fossero rimasti a casa sarebbero ancora vivi. Questa sentenza fa sembrare che sono loro ad aver provocato l'incidente. Ubriaco, uccise 3 persone. pena sospesa. Chiudo così la lettura dei giornali. Vi ricordo di votare il sondaggio. Allora, i politici, molti, bipartisan, senatori e deputati dicono basta identificarci come ladri e delegittimarci. È una protesta secondo voi legittima? Votate su radio24.it, bianco o nero, ora al GR. Allora, 8 e 17 minuti, eccoci nuovamente in diretta. Conclude la nostra settimana Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta... Soldi e dintorni. Siamo qui. Eh già. E con dove altro Rosciani. Se no. Esatto. L'avevi detto, domani siamo qui. Domani sì, è esatto. Oggi, sono o meglio oggi e domani. Sono una veggente. Guarda, mi stupisco qualche volta di me stessa, le mie capacità predittive, si dice. Bene, bene, predittive. Sì, sì, sì. Allora, parliamo un po' di lavoro. Tra l'altro riferendoci anche a quanto ha dichiarato l'Istat qualche giorno fa, pubblicando i dati in questo rapporto annuale decisamente poco felici sull'occupazione giovanile e o anche sulla presenza dei giovani ancora sotto il tetto dei genitori, i famosi loro malgrado, bamboccioni di Padoa-Schioppa, che oggi più che mai in realtà sono vittime di una situazione lavorativa che anche nel nostro paese è particolarmente difficile. Anche ieri all'assemblea di Confindustria Emma Marcegaglia lo ha detto molto chiaramente. Allora, facciamo un po' il legame con il tema che vorremmo affrontare questa mattina. Qualche settimana fa, Salva Danaio, abbiamo voluto raccontare che cosa sono i buoni lavoro o voucher che vengono riconosciuti per prestazioni di lavoro occasionale accessorio, e abbiamo riscontrato un buon successo della nostra trasmissione e molte richieste di informazioni sia dai giovani che possono essere retribuiti con questa forma, ma anche e soprattutto da parte di molti possibili potenziali datori di lavoro che magari non conoscono bene la dinamica e il funzionamento di questi strumenti. Allora, stamattina abbiamo deciso di rifare un punto della situazione, anche perché c'è una novità di qualche giorno fa, e cioè dal 17 maggio è possibile anche acquistarli in 3.000 tabaccherie italiane. Allora, oggi per fare un po' di chiarezza abbiamo interpellato di nuovo uno dei nostri esperti preferiti in materia previdenziale, per il Sole 24 Ore, Sergio D'Onofrio, che è anche docente, anzi è prima di tutto docente di legislazione sociale presso la LUMSA di Roma. Professor D'Onofrio, buongiorno e grazie di essere con noi a Soldi e Dintorni, buona giornata. Buongiorno a tutti, grazie. Eccoci qua. Allora, tra l'altro preannuncio già che, come avevo già detto anche ieri, da lunedì cominceremo ad esplorare le novità di questa manovra da 24 miliardi varata dal governo qualche giorno fa, e lunedì cominceremo proprio in collaborazione con il Sole 24 Ore a toccare il tema delle pensioni, e Sergio D'Onofrio sarà con noi. Prima di tutto però i voucher lavoro. Professor D'Onofrio, come nasce questo sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio? Dunque, questo sistema nasce in realtà, cioè è stato concepito dal punto di vista legislativo con la riforma Biagi del 2003, però poi ecco è stato introdotto realmente con la vendemmia del 2008 con una sperimentazione, e visti i buoni risultati di questo avvio si è pensato poi gradualmente di estenderlo ad altri settori, e quindi oggi praticamente si può usare questo strumento in tutti i campi di attività, e possono utilizzarlo quindi quasi tutti i datori di lavoro, e possono poi prestare la loro attività anche praticamente tutte le categorie, esclusi i lavoratori a tempo pieno, parliamo quindi di studenti, casalinghe, pensionati e così via, sempre che si tratti di prestazioni, ecco questo va chiarito, di tipo accessorio, cioè prestazioni occasionali che non vanno confuse invece con altre prestazioni per le quali invece bisogna instaurare altri tipi di certo contratti. Quindi un rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere remunerato attraverso questo tipo di attraverso questa forma, professor D'Onofrio. Assolutamente. Allora, dove sono acquistabili questi buoni? Abbiamo detto questa mattina della novità di cui abbiamo letto appunto da qualche giorno, che adesso si possono acquistare anche nelle tabaccherie italiane, ma generalmente invece fino a questo momento i potenziali datori di lavoro che volevano utilizzare questa forma dove li prendevano, professor D'Onofrio? Allora, oltre a questo canale introdotto recentemente e che sicuramente sarà apprezzato dagli utenti, siano essi committenti o lavoratori, c'è la possibilità di acquistare i buoni direttamente dall'INPS, dopo però, ecco, questo va chiarito, aver fatto un versamento, perché l'INPS non fa, diciamo, un lavoro di cassa, per cui il committente con un versamento sul conto corrente postale si presenta all'INPS e acquista i buoni. È comunque nel momento in cui però vuole effettivamente utilizzarli, deve però comunque il giorno prima dell'inizio della prestazione fare una comunicazione all'INPS attraverso un numero verde, in modo che, insomma, anche poi l'INAIL sia informato dell'avvio di questa attività. Questa è una norma ormai generale di tutte le prestazioni lavorative. E infatti, e poi c'è la possibilità di ottenere questi buoni anche online, seguendo una procedura tramite il sito dell'INPS. Infatti, allora, il committente, sostanzialmente quindi il possibile datore di lavoro, deve comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INAIL INPS tramite questo numero unico, il cosiddetto contact center, l'803164, e poi chiaramente l'operatore che prende la telefonata, vanno dichiarati e segnalati tutti i dati anagrafici, il settore di attività, codice fiscale, naturalmente sia del datore di lavoro, ma anche evidentemente del cosiddetto prestatore, quindi il lavoratore che, come ripeto, come ci ha già detto il professor D'Onofrio, possono essere tra l'altro pensionati, studenti, disoccupati o anche dipendenti che però ovviamente prestano lavoro occasionale accessorio. Cosa ne pensa di questa novità relativa all'acquisto nelle tabaccherie del voucher? Secondo lei, insomma, potrà essere un canale più sfruttato di quello tradizionale, di quello che è stato maggiormente sfruttato fino a questo momento? Qual è la potenzialità di questo nuovo veicolo, appunto, di trattandosi appunto di un punto di riferimento molto diffuso sul territorio, si parte con 3.000 tabaccherie, chiaramente, insomma, gli utenti, c'è da presumere che in futuro privilegeranno questo canale, anche perché sta già dando degli ottimi risultati per altre operazioni, ad esempio per il versamento dei contributi domestici, per i versamenti volontari, il bollo. Quindi dell'auto è, diciamo, un sistema facilmente accessibile che ha tra l'altro il vantaggio così di poter essere fatto non solo sotto casa, ma anche a volte, diciamo, senza doversi sottoporre magari a un'attesa, a una piccola fila. Allora, i buoni, dicevamo prima, possono essere acquistabili anche in tabaccheria. Non abbiamo detto però quanto vale un voucher, professor D'Onofrio. Leggevo 7 euro, sì, e mezzo netto, però in realtà il valore lordo, sì. Lo ricordiamo volentieri. Ogni buono vale 10 euro e in questi 10 euro è incorporato il costo dell'assicurazione, sia per l'INPS per quanto riguarda la pensione, sia l'assicurazione contro infortuni dell'INAIL, e poi c'è una quota per il servizio. Quindi al lavoratore vanno in tasca 7,5 euro netti esentasse. Quindi ecco, questo è un altro aspetto positivo da sottolineare, cioè il buono è praticamente esente da imposta. Certo, professor D'Onofrio, io tra l'altro ho già terminato il tempo a nostra disposizione, ma banalmente l'ultima domanda: io come datore di lavoro consegno alla persona che ha lavorato per me 1, 2, 5 voucher a seconda di quello che gli devo riconoscere, e poi appunto il cash, il contante, il lavoratore come lo può cambiare? Lo può cambiare recandosi in qualsiasi ufficio postale, adesso anche nelle tabaccherie che fanno. Perfetto. Il servizio. Quindi può fare questo cambio. Da questo punto di vista il sistema diventa più semplice, più snello, e quindi c'è la possibilità, appunto, per il lavoratore di riscuoterlo. Benissimo. D'Onofrio, ci sentiamo lunedì per le pensioni. Grazie e buon fine settimana. Grazie a voi. A presto. A Alessandro. Salvadanaio, oggi ritorniamo un po' a parlare della certificazione energetica delle case, tutte le procedure che bisogna fare adesso nella compravendita, un po' di novità ci sono. Benissimo. Alle 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, e allora parliamo dei politici, della politica, di tagli e anche di una sorta di ribellione che c'è in atto da parte di molti politici. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Cioè, il nostro sondaggio di oggi prende lo spunto da una serie di politici che hanno detto basta, dicono basta, deputati e senatori che dicono guardate che noi non siamo dei ladri perché per il solo fatto di essere deputati e senatori. C'è questo clima di antipolitica, questo clima di delegittimazione del Parlamento. Siamo qui a lavorare, siamo anche privilegiati, guadagniamo tanto, se ci sono dei tagli facciamo dei tagli, ma smettiamola di dire che politico uguale ladro, farabutto. Io posso andare avanti leggendo già i messaggi che arrivano al 349-238-6666, cialtrone, si mangiano tutto, ladri, scansafatiche, farabutti, disgraziati, papponi. Posso continuare. Chi fa politica non è per forza un ladro. È una protesta legittima, secondo voi, di parte di deputati e senatori che dicono così? Questo vi chiediamo oggi su Radio24.it. Secondo me è una protesta legittima, perché c'è troppa demagogia e populismo. Il 90% già di chi vota dice no, non è vero, sono evidentemente ladri, cialtroni, scansafatiche, eccetera. Allora, intanto ne parliamo con due politici, uno è l'onorevole Stefano Esposito del PD, buongiorno. Buongiorno a lei. Così come saluto l'onorevole Giorgio Stracquadagno del Popolo della Libertà che ritroviamo, buongiorno, ben ritrovato. Allora, io ho detto che sono che è legittima questa protesta, però poi adesso con Mario Aiello del Messaggero, notista di politica, buongiorno Mario, poi buongiorno. Daremo anche un po' qualche, no, qualche sferzata a questi della casta. Allora, onorevole Esposito, io parto da lei perché lei ha detto io mi sono stancato. E intanto che cosa ha fatto? Ha messo sul suo blog che cosa? Sul suo sito? Ma guarda, io ho pubblicato le mie ultime tre dichiarazioni dei redditi, una tabella riassuntiva di quelle che sono le spese, e sto pubblicando, perché ho iniziato nel mese di maggio, per adesso ho messo il primo statino dell'indennità che riceviamo con tutte le voci, quest'oggi, perché l'abbiamo ricevuta ieri, metterò lo statino della diaria con tutte le voci, e quando all'inizio di giugno arriverà lo statino dei soldi del gruppo, quelle per la cosiddetta attività nel collegio, che purtroppo non c'è più, perché il nostro limite peggiore è quello di essere nominati, e quindi questo è un elemento che conta moltissimo secondo me in questa ventata, nuova ventata contro chi fa politica, e per consentire a tutti di giudicarmi e di mandarmi a quel paese per quello che guadagno sul serio, non per quello che viene. Che non è che quanto è? Quanto è al mese? Quanto guadagna lei al mese? Quanto le rimane in tasca? Facendo tutti i calcoli che poi. Complessivamente diciamo che mi metto in saccoccia, come mi scrivono molti sul sito, su Facebook, intorno ai 5.000 euro. Ma guardi, io vorrei precisare una cosa, io questa cosa non l'ho fatta perché voglio essere né compatito né capito, voglio essere insultato per quello che guadagno sul serio. Le faccio questo esempio: su tutti i giornali si continua a dire che il parlamentare guadagna 5.400 euro di diaria, di indennità. Io le garantisco che in due anni, e lo posso testimoniare, non ho mai preso più di 4.700-4.800 euro al mese. Che lei dice non mi lamento, è un ottimo stipendio. Perché ma io sono un privilegiato, sono assolutamente un privilegiato. Però sentirmi dire che guadagno 20.000-24.000 euro al mese, un elettore l'altro giorno mi ha detto che mi metto in saccoccia 500.000 euro in 5 anni. Non è così, sono un privilegiato, non mi ritengo ricco. Non mi interessa essere, ribadisco, compatito, almeno mi insultino per quello che guadagno. Qual è l'insulto che dà? Ma è vero che lei un po' si vergogna? Cioè dice c'è da vergognarsi quasi a fare il parlamentare? Allora, io personalmente la patisco questa cosa, perché poi ognuno giudica per il lavoro che uno fa, però francamente l'idea di essere approdato in Parlamento, io peraltro ci sono approdato che avevo 38 anni e adesso ne farò 41 tra poco, di essere additato come una specie di approfittatore, non è una cosa che non riesco, non sopporto personalmente, psicologicamente, non ce l'ho con chi lo fa, ma non lo sopporto psicologicamente, quindi ho deciso di mettere in chiaro tutto quanto. Poi vivevo prima, le garantisco che vivrò anche dopo. Poi se vogliamo discutere di come funziona il Parlamento. Sì. Ma lei ha la prima legislatura, ma ieri so che ha detto la nostra Sara Spirafico sarà anche l'ultima. È vero? Beh sì, le posso dire con grande franchezza che vivere in una condizione nella quale poi forse siamo capitati veramente in una legislatura sfortunata in cui questo Parlamento fa fatica a lavorare un giorno e mezzo a settimana, quindi ci sono delle ottime ragioni per le quali le persone che stanno fuori ci vivono come no, dei fannulloni, però vorrei che fosse chiaro, cioè, non è che io vado a Roma e cerco di andarmene il prima possibile, se la Camera lavorasse anche il lunedì e il venerdì io sarei lì. Devo dire che anche i presidenti delle Camere prima dell'altro giorno ci hanno messo anche dell'oro. Sì, no? Lei dice perché insomma non si lavora granché, una legislatura sfortunata. Non so, vorrei, onorevole Stracquadanio, qui bisogna aggiornare, c'è anche da mettere puttanieri e corrotti, insomma l'elenco di chi, vabbè, ma sai, i messaggi uno si sfoga un po'. Lei si vergogna di fare il parlamentare, no? No, io sono orgoglioso. Perché nel momento in cui uno rappresenta i cittadini in quello che dovrebbe essere il tempio della democrazia rappresentativa e per il quale hanno votato l'80% degli italiani, non vedo di che cosa ci si dovrebbe vergognare, soprattutto quando si adempie al proprio dovere con diligenza, come il collega Stefico e io e tanti altri colleghi facciamo. E la diligenza è quella per la quale ieri mattina siamo entrati nel palazzo di Montecitorio prima delle 9 del mattino e abbiamo lavorato ininterrottamente fino alle 19 di sera, non riuscendo ad avere neanche il tempo per un panino o dovendo avere la necessità a un certo punto del pomeriggio di avere una pausa dei lavori per andare alla toilette. Però non la metta così stracquadanio, se questo lavoro sia efficace o meno è un altro discorso, ma che l'impegno è stato di tutti e che ieri nel dibattito su una legge importante che riordinava tutto quello che è il codice delle norme antimafia ci siano stati una ricchezza di interventi, di discussioni, di voti anche diversificati tra maggioranza, opposizione o anche in comune. A me pare che sia stata una pagina importante della vita del Parlamento, è un momento di lavoro serio e naturalmente non ce n'è una riga sui giornali né le dirette radio televisive si sono occupate di questo. No, mentre se avviene un po' di casino e se ci manteniamo un po' in aula, quello ovviamente fa notizia. Ma io sono contento perché vuol dire che ancora fa notizia l'uomo che morde il cane e non il cane che morde lui. In ogni caso io vorrei andare da Mario Aiello e prendere spunto. Allora abbiamo sentito anche la difesa, io devo dire anche orgogliosa, da un certo punto di vista questo clima demagogico non se ne può più, cioè pensare che sia lì questa equazione politici uguale farabutti, no. Però Mario, io vorrei prendere spunto da una mail che ci scrive perché il governo ha tagliato nella manovra dovunque e invece alle Camere, al Parlamento si dice non hanno tagliato nulla, ma dice per favore tagliate. Allora questo io lo dico tutti i giorni, rassegna stampa, ma non mi ascoltano. C'è questa autodichia che ieri mi ha scritto una mail dicendo lei non se la prenda con l'autodichia, che è un termine splendido. Che cos'è l'autodichia? Ce lo spieghi, ma, Mario? L'autodichia significa giustizia domestica. Insomma, ovvero la giurisdizione delle Camere, l'autogiurisdizione delle Camere sulle controversie relative ai vari status, a cominciare dallo status economico dei dipendenti e dei parlamentari. Se devono tagliare lo devono decidere loro stessi. Esatto, ed è un istituto che serve a garantire l'indipendenza del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna. Quindi è un istituto assolutamente garantista. Certo. E dal mio punto di vista estremamente giusto. Anche se io ho sentito ovviamente quello che hanno detto i parlamentari che hanno appena parlato e condivido in gran parte quello che hanno detto, però secondo me dare un segnale da parte dei politici, un segnale proprio di responsabilità e di consapevolezza della gravità del momento, rinunciando a questi 1.000 euro di cui si parla, secondo me sarebbe sono anche disponibili i nostri parlamentari, è che loro dicono Aiello basta, va bene, anche Esposito dice io guadagno tot, insultatemi per quello che guadagno, ma non ditemi che sono un ladro farabutto che guadagno 20.000 euro. E infatti da questo punto di vista questo io sono assolutamente non d'accordo con lui, però bisogna anche aggiungere che ci sono politici che comprano le case con i soldi del partito, politici che fanno anche i banchieri, politici che cumulano allo stipendio da parlamentare quello da avvocato o da notaio, e poi stanno sempre negli studi professionali e non stanno mai in aula. Insomma, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, non bisogna fare demagogia della più andante, come spesso vediamo soprattutto sul web, eccetera, sì, eccetera. Sì. Però insomma alcune precisazioni vanno fatte. Cioè il fatto, come diceva giustissimamente Esposito, che tutto nasce dal fatto che questi sono parlamentari nominati e non eletti. Sì. E quello, diciamo, è un vulnus che bisogna rattoppare in qualsiasi maniera. E cambiando la legge elettorale, come perché prima è cosa. Appunto. quando tu metti questo fatto del parlamentare nominato e non eletto, ci aggiungi il fatto che non lavora mai di lunedì e di venerdì. Ci aggiungi l'altro fatto che non lavora più di 10 ore a settimana. E poi la gente si arrabbia su questo. La gente si arrabbia. Cioè fermati un attimo, Mario, però devo andare a dare le notizie sul traffico, poi rientriamo. Onorevole Stracquadagno, puoi immaginare a capire che la sua descrizione della giornata, senza neanche un panino, andare a fare pipì, abbia suscitato già nei messaggi, dice, povero Stracquadagno che si lamenta, ha lavorato 10 ore al giorno o 12 ore. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, vediamo se un paio di ascoltatori all'800240024 la pensano come chi? Luigi da Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Che dici? Sono del tutto d'accordo sul fatto che sia non solo giusto, ma doveroso difendere l'immagine dei nostri parlamentari. Dovrebbe essere, tra l'altro, l'informazione in qualche modo a farsene carico. Deve essere giusto perché, in fondo, è il sistema Italia, tutta una immagine del nostro sistema che viene messa in discussione. Credo che sia anche un metodo abbastanza semplice per ricostruire questa immagine. Basterebbe rendere obbligatoria la pubblicazione della dichiarazione dei redditi prima di diventare parlamentare e a distanza di 1, 2 o 3 anni dopo l'accesso alla carica di parlamentare. Ma guarda che le dichiarazioni dei redditi obbligatorie vengono depositate, ogni anno ci sono articoli anche sulle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari che le depositano, insomma, in Parlamento, sono poi consultabili dai giornalisti, Luigi. Ci sono anche studi su come aumentano le dichiarazioni dei redditi prima e dopo. Comunque lei dice dovrebbero essere obbligo. Qualcuno dice l'anagrafe degli eletti, cioè lo vuole il senatore Chino, cioè pubblicare tutto trasparente dei parlamentari. Lei però dice va in difesa la immagine. Sentiamo Luciano dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senta, no, sono d'accordo sul fatto che debba essere difesa l'immagine dei nostri parlamentari, però faccio riferimento a quei 5.000 euro che diceva il precedente. Sì, l'onorevole Esposito, 5.000 ecco, euro al mese. 5.000 dicendo euro. Sono un privilegiato, l'ha detto, però non sono i 20.000 che si leggono sui siti internet, sono 4.700, 4.800. Dica. Ah, allora io mi chiedo una cosa, no, lei, arrotondiamo così facciamo un conto così con le mani, no? 5.000 euro al mese moltiplicato 12 sono 60.000 euro l'anno, giusto? Sì, sì. Moltiplicato 5 sono 300.000 euro per una legislatura. Sì. Siamo d'accordo? Allora, il signore che diceva che guadagnava 5.000 euro al mese, quanto ha speso in campagna elettorale? Domanda. Andiamo, onorevole Esposito, in realtà lei ha fatto un calcolo, poi vado a Stracquadagno. L'onorevole Esposito ha fatto un calcolo che vi risparmio, ma ha detto la mia dichiarazione, il reddito netto a fine anno, l'ultima dichiarazione, è di 46.000 euro. Ma tanto è tutto sul suo blog, quindi ci sarà proprio la fotocopia della dichiarazione dei redditi. Quanto ha speso in campagna elettorale? Insomma, le chiede l'ascoltatore. Guardi, la campagna elettorale che noi abbiamo fatto nel 2008, essendo drammaticamente nominati, lo risottolineo, non si fa praticamente, cioè non serve. Questo, purtroppo bisogna ripeterselo e cercare di cambiare questa legge. Io ho versato 50.000 euro al Partito Democratico del Piemonte come contributo alla campagna elettorale, perché con questo sistema il partito ha organizzato una campagna elettorale e ha chiesto a coloro che stavano nei primi posti del saltata la linea, la recuperiamo. Onorevole Straquadagno, veniamo a lei. Insomma, sì. La sua descrizione di giornata. Prima non mi lamentavo. Uno che dice che è orgoglioso si lamenta. No, lei dice non sono neanche riuscito a mangiare un panino. Come fannulloni, anche il collega Aiello ha detto prima, poco fa, una castroneria, cioè che non lavoriamo di che 10 ore alla settimana e che il lunedì e il venerdì non faremo nulla. Ed è una castroneria grande come una casa e grande quanto quella che i giornalisti lavorano tutto il giorno, perché noi lavoriamo molte più ore alla settimana se andiamo in commissione, andiamo in aula, sì. Perché martedì, mercoledì, giovedì sono giornate di aula e di commissione in cui ci siamo tutti e si lavora, già lì sono una quarantina di ore, ma il lunedì e il venerdì non è che ci grattiamo la pancia o facciamo flanella. Una persona che voglia fare il suo mestiere seriamente deve leggere o no i dossier, deve conoscere o no i testi della legge, deve preparare o no gli emendamenti, deve sapere intervenire o no, deve saper leggere i giornali o no. Ma lo fanno tutti i politici, onorevole Straquadagno. Ma a me non interessa se lo facciano tutti o non lo facciano, io chiedo di essere valutato per quello che faccio. E scusi, l'Italia è piena di gente a cui noi facciamo talmente schifo che vengono tutti i giorni a chiederci un favore, perché se devo dire l'elenco di quanti, disprezzandoci, ci chiedono un favore, e il problema è che i favori non ne facciamo più, proprio perché non abbiamo più quel vincolo della preferenza, e allora sembra che siamo più cattivi, per esempio, dei consiglieri regionali che non sarebbero nominati ma eletti, i quali in realtà passano la vita a organizzare una loro clientela da 5-10 mila elettori. Cioè dice, questa legge elettorale salva dalle clientele. Questa è una legge che impedisce che si faccia la provvista per la campagna elettorale, proprio perché le campagne elettorali le fanno i leader dei partiti e i candidati contribuiscono, come ha detto prima il collega del PD, con un contributo iniziale alla campagna elettorale, con un'attività continua anche di rapporto col territorio, con i territori. Lei lo sa quanti chilometri faccio all'anno io o non lo sa? Quanti li faccio con la mia macchina a mie spese, perché vengo chiamato in giro per parlare da una parte all'altra. Ma sono quasi come cortesemente lì mi chiamate. Guardi, voi, se lei mi potesse vedere, ho quasi le mani alzate, cioè dire traduco, guadagna fin tanto poco secondo lei, o guadagna il giusto per quello che fa? Milan, mi perdoni, i giornalisti parlamentari che tanto pontificano, io vorrei sapere quanto è diffusa nelle redazioni la pratica dei favori, dei regali, dei benefit, e quanti passano il lunedì o il venerdì a cazzeggiare per il transatlantico e a chiacchierare inutilmente, vanamente, e poi scrivere un pezzo che faccia di retroscena il più delle Aiello, cazzeggi! Questo non la prendo. Sulle ultime cose che ha detto Straquadagno, io sono d'accordissimo. Che, no, come d'accordo? Che fai? Cazzeggi, Aiello? No. Allora, non a caso mi sono sempre rifiutato di diventare giornalista parlamentare. Io non sono giornalista parlamentare. Il giornalista parlamentare tipo cazzeggia tutto il giorno sul divanetto del transatlantico, esattamente come dice Straquadagno. Quindi io, come lei, alzo le mani su questa cosa, a ragionissima. Però credere che tutti i parlamentari siano come Straquadagno, cioè degli stacanovisti, è un assurdo. Continuamente stime sulle presenze e sulle assenze in aula, ci sono deputati anche di una certa fama che hanno un tasso di assenteismo dell'89-90%. Sì. quindi scusa, cioè, lasciatemi non difendere la mia categoria, però lasciatemi pure dire che, diciamo, il modello Straquadagno non è. Non ha molti proseliti. Io, onorevole Esposito, ho 10 secondi e abbiamo recuperato la linea. Lei stava dicendo, insomma, che spende 50.000 euro, quanto ha speso per il contributo. Che poi che campagna elettorale doveva dare il contributo se è un Parlamento di nominati? Scusi. Il partito ha utilizzato questi soldi per fare i volantini, per fare i manifesti, certo, per fare qualche spot sulle televisioni private. Io però mi permetto di dire questo. Per quanto riguarda il Partito Democratico, noi versiamo poi ogni anno intorno tra i 40 e i 50 mila euro ogni anno, certificati, verificabili, quindi che io ho anche pubblicato sul sito, che come contributo al partito al portiamo dei soldi anche al gruppo di appartenenza per il mantenimento della... Comunque, quella cifra, lei è tutto chiaro, quella cifra che lei ha detto sui 5.000 euro che si mette in saccoccia, quello è al mese. Dice, giudicatemi per quello, non per altre cifre assurde. Ci fermiamo, grazie a tutti, Sara Sperafico in redazione, Peter Bescapè in regia e Oscar Giannino che prende la linea, parla delle province. Il taglio delle province è durato 24 ore, ma insomma, queste province, boh, chi lo sa. Noi ci sentiamo lunedì mattina.